Terra in vista. L'Expo spiegato a mio figlio e ai genitori dei suoi amici. 10 parole, 10 viaggi, 10 tappe per raccontare l'Expo a mio figlio e ai genitori dei suoi amici. Benvenuti a Terra in vista. Federico Taddia e Telmo Piovani. Ciao Telmo. Ciao, eccoci. Per così raccontarvi attraverso 10 parole il contenuto di Expo. Lo facciamo attraverso domande poste dai più piccoli, grandi esperti che rispondono, anche curiosità, filastrocche, attività da fare insieme tra arte e scienza. La parola di oggi è una bella parola, vero? Che ti appartiene tanto, Telmo, evoluzione. Beh, oggi sono contento, oggi è la mia parola e sono curioso di capire i bambini come l'hanno interpretato. Eh sì, evoluzione racconta tutta la nostra storia, tenteremo di definirla a modo nostro, però appunto partiamo proprio dai più piccoli. Questa è l'evoluzione secondo loro. Evoluzione sono degli esseri viventi che si evolvono e crescono normalmente. Non lo so. Un qualcosa che si evolve, cioè che cresce. È qualcosa che da una cosa antica diventa una cosa nuova. Diventare più intelligente. Vuol dire che ha inventato nuove cose. Una cosa che accade. È un salto, o di solito l'evoluzione è più a testa in giù. Ad esempio, l'uomo una volta camminava a quattro zampe, evolvendosi ha capito che forse era meglio camminare su due piedi. L'evoluzione è quando qualcosa si trasforma, quando vengono dei progressi. Tipo da un seme cresce un albero. Prima eravamo l'Homo habilis, poi l'Homo erectus, poi l'Homo di Neanderthal sapiens, e ora siamo l'Homo sapiens sapiens, che ha sviluppato il cervello e ha imparato a coltivare e a mettere i semi nella terra in modo da far crescere delle piante. Beh, il mio preferito rimane a testa in un salto o a testa in giù. Sì, esatto. Che comunque esiste il salto evolutivo, non è solo qualcosa di circense, quindi ci siamo. E tanti spunti, tante intuizioni, alcune anche giuste legate a questa parola, evoluzione. Che cos'è, Telmo? Beh sì, la parola magica è stata pronunciata, trasformazione. I bimbi spesso associano l'evoluzione allo sviluppo, alla crescita, tanto hanno riposto la crescita, diventare grandi. Quello si chiama appunto sviluppo ed è il fatto che noi ci evolviamo nel corso della nostra vita. In realtà l'evoluzione, per come ne parliamo oggi, è una cosa molto, un processo molto più lungo e vuol dire cambiamento, semplicemente trasformazione. Vuol dire che gli esseri viventi una volta non erano come sono adesso e sono cambiati. E non è obbligatorio che cambino verso il meglio, diventando più intelligenti, più grandi, più belli. Si diventa semplicemente più diversi e lo si diventa attraverso un meccanismo che si chiama adattamento, cioè cercando di sopravvivere un pochino meglio degli altri in un ambiente che cambia continuamente. L'evoluzione è una storia imprevedibile, fatta di possibilità. E non è che noi eravamo uomini che camminavano a quattro zampe, eravamo un'altra cosa e siamo diventati uomini bipedi, trasformandoci e imparando a muoverci in un modo diverso perché il nostro ambiente era cambiato. Altra cosa importante che ho notato nei bimbi di l'Homo habilis, l'Homo erectus, in realtà l'evoluzione non è una storia in cui arriva uno che sostituisce quelli che vengono prima perché è più bravo, che è più intelligente. Questo l'abbiamo imparato di recente. L'evoluzione non è una scala a pioli, no, ma è un albero, o meglio un cespuglio. L'albero della vita peraltro è il grande simbolo dell'Expo. È un albero, è fatto di rami e quindi è fatto di tante specie che si diversificano, alcune si estinguono, altre danno origine a delle specie figlie, e noi siamo dentro questa bellissima storia, questo grande cespuglio. Siamo l'ultimo ramoscello di un cespuglio fatto di tante specie umane, e pensa che su questo pianeta fino a 50-60 mila anni fa c'erano 4-5 specie umane tutte insieme, poi siamo rimasti da soli. Quindi non è la famosa maglietta dove prima c'è la scimmia, poi ci sono varie tipologie di Homo e alla fine ci siamo noi, ma è l'albero la vera immagine, il vero simbolo dell'evoluzione. Quella della maglietta è un'immagine che ci piace tanto, ma non è andata così. Noi siamo un ramoscello in mezzo a tanti altri, una storia di diversità. E oggi andremo a scoprire insieme questa storia di diversità proprio attraverso le domande dei bambini. Adesso una filastrocca, il traffico è ancora qui con Terra in Vista. Il girasole è la mia vita. Seguire il sole nel cielo sotto il suo sguardo di fuoco, non piego mai lo stelo. Come in una danza, cerco la sua luce, il suo calore e giro, giro finché mi batte il cuore. Giro e giro, giallo di gioia e di felicità, le ore passano in tutta libertà. Ma poi il sole tramonta e io non so più con chi danzare. Che senso avrebbe continuare a girare? Così mi fermo e aspetto. So che è solo una pausa e che la mia danza non è finita. La notte passa in fretta e ricomincia la vita. Terra in vista. Terra in vista, oggi si viaggia per davvero con questa parola evoluzione. Ovviamente i temi sono quelli di Expo, perché vogliamo spiegare l'Expo ai bambini e quindi eccola qua, la prima domanda posta da un bambino. Yuhu! Cosa mangiava l'uomo primitivo? Telmo, insomma, Expo guarda avanti, noi qui invece guardiamo indietro, giustamente. Eh già, cosa mangiavano 2 milioni di anni fa? Non è male. Abbiamo trovato l'esperto e lo abbiamo convocato, e qua con noi Claudio Tunis, scienziato del Centro Internazionale di Fisica Teorica di Trieste e autore del libro Homo Sapiens, scritto insieme a Patrizia Tiberi Vipraio. Ciao Claudio, benvenuto a Terra in Vista. Ciao Claudio. Ciao, buongiorno a voi, ciao. Allora, sei un esperto di diete del passato? Beh, mi interessano gli studi anche dei denti degli uomini del Paleolitico. Per cui questi sono collegati appunto con la dieta. Certo. Cosa si mangiava? Beh, dipende da quali uomini del Paleolitico consideriamo, perché il Paleolitico, quindi siamo un paio di milioni di anni, abbiamo diversi tipi di umani o anche preumani. Quindi si può passare da quello che mangiavano per esempio lussi e amici e altri australopitechi, che erano più che altro erba, foglie o cose del genere, o i paranthropi che mangiavano con i loro enormi molari e le grandi mandibole, mangiavano noci e radici, fino poi ai primi Homo che si davano alla che mangiavano insomma carne in grandissima quantità, magari anche già cotta. Certo. Scusa, ma mi è venuta una domanda banalissima mentre parlavi. E se li lavavano i denti in un qualche modo? No, e questo anche è un bene, perché così voi capite cosa mangiavano. Se non si lavassero i denti, vuol dire che ora possiamo trovare, e sono veramente ricerche recenti, il residui di tartaro, di placca dentaria, è stato trovato recentemente per esempio in quel nuovo australopiteco scoperto in Sudafrica, Sediba, e lì si possono vedere varie cose in questo tartaro, per esempio dei piccolissimi minerali che ti dicono esattamente dal tipo di pianta da cui veniva. Per esempio Sediba mangiava soprattutto piante acquatiche e addirittura mangiava anche cortecce d'albero. Per cui sì, questa è una cosa interessante. Comunque si possono anche analizzare ovviamente poi altre cose usando i metodi per esempio della fisica, visto che io sono un fisico, misurando i cosiddetti isotopi, cioè le diverse forme di atomo che abbiamo nel carbonio, nell'azoto, e questi dicono in grande dettaglio se era un individuo del Paleolitico un carnivoro, un erbivoro, se magari mangiava quasi solo pesce. Certo. Telmo, ma quando l'uomo ha iniziato proprio a mangiare per piacere, non solo per la sopravvivenza, cioè le prime ricette, un po' anche il culto della buona cucina, c'è un momento dove questo è successo? Beh, lì in tempi molto più recenti, direi, quando l'uomo ha imparato a prodursi il cibo anche in grandi quantità, a diversificarlo da sé, e a quel punto è nata anche l'idea di combinare fra di loro i cibi, ma soltanto, diciamo, dall'agricoltura in avanti. I detective come Claudio vanno molto più indietro nel tempo, e questo è magico, fanno una sorta di archeologia alla Sherlock Holmes. Certo. Claudio, i nostri ascoltatori sono dei grandi fan dell'uomo di Neanderthal. Non aveva il frigorifero, ovviamente, però quali erano il suo pranzo ideale, quale poteva essere? A parte che non aveva, anche se non aveva il frigorifero, essendo vissuto attraverso lunghi periodi glaciali, ovviamente non aveva molti problemi a conservare i suoi bisteccone di mammut. Fino a tempi recenti poi si pensava veramente che i Neanderthal fossero degli insaziabili carnivori, però dati molto recenti suggeriscono che veramente non disdegnassero anche cibi vegetali, anche pesce, per cui addirittura è stata analizzata non solo i denti dei Neanderthal, ma anche le feci fossili di Neanderthal, cioè la cacca del Neanderthal, e lì si è dimostrato per esempio che in un sito spagnolo che mangiavano molta carne, in un altro sito invece che mangiavano solo vegetali a El Cidrón in Spagna. Per cui abbiamo dei messaggi contraddittori sulla loro dieta. Tra l'altro sembra che appunto conoscessero anche la camomilla e altri tipi di tisane. Infatti nel loro DNA, se ricordo bene, è stato trovato un gene che permette di percepire l'amaro, come per noi, per cui potevano anche un po' selezionare il tipo di erbe commestibili a seconda del gusto. Grazie davvero a Claudio Tuniz. Ricordiamo Homo Sapiens, una biografia non autorizzata, Carrocci Editore, un bel racconto di chi siamo e di chi siamo stati. Grazie davvero Claudio, ciao. Grazie. Grazie a voi, grazie Federico, grazie Telmo, grazie agli ascoltatori, ciao. Expo Pub, 100 cose da sapere per stupire mamma e papà. Slovenia. Ingrediente tipico della cucina slovena è il fior di sale di Pirano, prezioso e caratteristico dono delle saline della costa, la cui lavorazione avviene ancora manualmente secondo i procedimenti del 1300. Il sale di questo territorio è noto per l'elevata qualità, la purezza e le peculiarità uniche dell'ambiente in cui è prodotto. Sul fondo di queste saline è infatti presente la petola, sedimento di natura biologica che impedisce il contatto fra sale e fango salino. Il fior di sale è il primo strato di cristalli che affiora nel processo di evaporazione. Dal potere salante poco più lieve del normale, dona un aroma particolare al piatto e per questo è ricercato dagli chef di tutto il mondo. Tante curiosità direttamente da Expo a Terra in Vista. Tutto ciò lo potete riascoltare anche sulle nostre pagine nel sito radio24.it. Entrate nella pagina di Terra in Vista, ci sono tutti i contributi extra, quindi le filastrocche, le curiosità, gli esperimenti. Torniamo alla nostra parola, torniamo all'evoluzione, torniamo a quello che mangiavamo nel passato. Telmo, carne o verdura? Il primo cibo qual è stato? E, insomma, siamo portati a mangiare una cosa o a mangiare l'altra? Questa è una bellissima domanda. Cioè, siamo onnivori per natura o vegetariani per natura? È molto difficile rispondere, innanzitutto perché la natura non ci dice come dobbiamo comportarci, quindi possiamo comunque oggi decidere di avere una dieta diversa dagli altri. Claudio Tuniz ci diceva che abbiamo dei dati contraddittori, perché c'è tutto, verdure, però anche la carne, addirittura dentro la stessa specie abbiamo visto con Neanderthal. Però forse il segreto, almeno secondo me, è proprio lì. Nel senso, non è una contraddizione. Probabilmente noi da un sacco di tempo mangiamo poco di tutto. Facciamo due conti. Allora, i nostri antenati prima del genere Homo mangiavano foglie, frutti e semi sostanzialmente, magari qualche insetto ogni tanto per avere un po' di proteine animali. Poi arriva il genere Homo intorno a 2,5 milioni di anni fa, un sacco di tempo fa. Lì i primi umani imparano a mangiare la carne. però non proprio tantissima, perché come facevano a utilizzare la carne? Non è che andavano a cacciare il grande animale, non erano ancora capaci, facevano i cacciatori opportunisti. Insieme con le iene, con gli avvoltoi, lo so che non è una cosa bella da dire, però insomma andavano a rubare le prede cacciate dagli altri, quindi mangiavano brandelli di carne e soprattutto, fondamentale, il midollo. Avevano imparato a rompere le ossa e mangiare questa sostanza molto molto nutriente, fondamentale. Pochi animali sono capaci di farlo, però nel frattempo continuavano a mangiare anche tutto il resto, la verdura e soprattutto, questa è una scoperta recente, i tuberi e le radici. Per intenderci, le patate, la manioca, l'igname, tutti questi alimenti fondamentali, perché basta cuocerli e sprigionano anche loro una grande capacità di energetica attraverso gli amidi e i carboidrati. Quindi noi abbiamo imparato a cuocere tutte queste cose, a renderle quindi più digeribili, più commestibili, ma anche molto più nutrienti. Allora, facciamo due conti: il nostro grande cervello, perché poi la cosa è tutta lì, chiede tanta energia. Dove l'abbiamo presa? Dalla carne un pochino, dai tuberi, delle patate e dalle verdure in grande quantità. Quindi se io dovessi rispondere alla tua domanda, direi che noi da 2,5 milioni di anni abbiamo una dieta molto diversificata, poco di tutto e con molta flessibilità. Questo è stato il nostro segreto. E questi sono i grandi e bei racconti di Telmo Piovani. Adesso è il momento di Expo Kids. Expo Kids, dire, fare, giocare. È il momento dell'arte, della fantasia e della creatività qui a Terra in Vista, come sempre guidati da Alessandra Falconi, atelierista del metodo Bruno Munari e collaboratrice del blog disegnangolo.it. Ciao Alessandra. Ciao. Buongiorno a tutti voi. Allora, oggi si gioca con l'evoluzione. Cosa ti ha ispirato questa parola? Beh, la ricerca è stata più difficile che per le altre puntate, devo essere sincera. Per fortuna mi ha salvato un'artista francese, Chantal Rossati, che ha una visione molto poetica dell'evoluzione. Cioè? Perché Chantal ha lavorato con il palmo della mano, il palmo del piede, forme come quelle delle bucce di patata, quindi tutte cose che abbiamo assolutamente sotto gli occhi quotidianamente e di cui spesso non vediamo l'evoluzione, perché la nostra mano in fondo non ci accorgiamo, non abbiamo la percezione di quanto sia cresciuta con noi. E quindi lei suggerisce, a partire un po' dal suo lavoro artistico, questo tipo di attività. Ci serve una fotocopiatrice o uno scanner, e anche qui ho pensato che in tempi di vacanze scolastiche capita di andare in ufficio con i genitori, quindi mentre siamo lì che ci annoiamo perché mamma e papà devono sbrigare le loro cose, sì, ci si può mettere alla fotocopiatrice. Con le mani è un pochino più comodo, ma perché no, si può trovare il modo anche di fotocopiare il piede, sì, senza danni, fare troppi danni insomma. Senza fare troppi danni, sì, infatti. Alla peggio però si può utilizzare lo scanner appoggiando sempre il piede con molta delicatezza, e da queste stampe e scansioni che io ottengo, un po' come suggeriva Bruno Munari, le guardo e cerco di pensare che cosa possono suggerirmi queste forme. Chantal Rossati, ad esempio, dal palmo di una mano ha tirato fuori un uccellino con una corona di penne tropicali. Fantastico. La pianta del piede è diventata un elefante che con la sua proboscide gonfia un palloncino. Quindi mi sembrava una visione, cosa ne dici Telmo, molto poetica di come l'umanità può evolvere. Assolutamente, e l'evoluzione individuale fra l'altro. E poi c'è il potere del caso, che è bellissimo, perché poi la mano e il piede hanno delle righe, dei corrugamenti del tutto casuali, quindi sono unici di ciascuno di noi. Poi una delle prime forme artistiche nelle caverne erano proprio le mani, no? Esatto, esatto. L'artista metteva poi vicino la mano, e la cosa bella, quasi sempre c'era anche la mano di un cucciolo, di un bambino, che voleva anche lui dire l'ho fatta anch'io, c'ero anch'io. Alessandra, hai qualche altro suggerimento? Sì, mi piaceva ispirare i nostri ascoltatori col fatto che anche le fiabe evolvono, e lo fanno grazie agli errori. Ad esempio, in pochi sanno che la nostra famosissima Cenerentola, che aveva la fortuna di portare una calda scarpa di pelliccia, in realtà si è trovata condannata a portare una scomodissima scarpetta di vetro nelle varie traduzioni. Ah, sì? Perché sembrerebbe che Perù abbia fatto confusione con ver, che è vetro, e ver, che è una pronuncia quasi simile, che è la pelliccia variegata. Fantastica, questa è involuzione, insomma. No, in realtà questa è una metafora perfetta dell'evoluzione, che funziona proprio così, di generazione in generazione c'è qualche errore e tu puoi ricostruire poi retrospettivamente come sono andate le cose. Fantastico. Alessandra, come sempre, grazie per i tuoi spunti. Ricordiamo che tutto ciò e altro ancora si può trovare sul blog disegnangolo.it. Ciao, alla prossima puntata. Ciao. Grazie a voi, ciao. Terra in vista. Federico Taddia e Telmo Pievani per spiegare l'Expo ai nostri figli e ai genitori dei loro amici. Si narrano le grandi tematiche legate ad Expo. Oggi questa parola evoluzione, di cui insomma già l'abbiamo detto, Telmo, è una tua grande bandiera, perché è la nostra storia. È da dove veniamo, sì, e capiamo come siamo arrivati fino a qui e come siamo cambiati. E lo facciamo ovviamente con le domande dei bambini. Questa è la seconda domanda che ci hanno regalato per questa puntata. Yuhu! Quello che mangiamo cambia il nostro corpo? Non male, non male. Insomma, anche il nostro corpo è frutto di quello che nella storia... Certo, ed è cambiato forse anche più di recente di quanto non pensiamo. Ah sì? Insomma, per rispondere a questa domanda abbiamo come sempre convocato un'esperta. Diamo il benvenuto a Marika Danubio, docente di antropologia ed ecologia umana all'Università dell'Aquila. Ciao Marika, benvenuta a Terra in Vista. Ciao Marika. Ciao, grazie, grazie a voi. Allora, il nostro corpo è cambiato a seconda del cambio di dieta? Direi proprio di sì. Diciamo, il cambio di dieta riguarda due aspetti principalmente, sia la quantità che la qualità. Certo. Quindi c'è stata più disponibilità di quantità di cibo e soprattutto di cibo migliore, diffuso a tutti quanti. Certo, e da cosa si vede questo cambiamento? Ma adesso io vorrei partire da un esempio molto semplice, sì, che secondo me è esplicativo. Se noi guardiamo i nostri padri, sono sicuramente più alti dei nostri nonni, i quali a loro volta erano sicuramente più alti dei loro padri. Quindi c'è stato un progressivo aumento nelle varie generazioni della statura. E questo perché? Perché il cibo, sia in maggiore quantità che anche migliore come qualità, diciamo, è stato tutto utilizzato per la crescita di questi bambini quando erano piccoli, per poter quindi arrivare a stature più alte. Ma invece prima questo cibo come veniva utilizzato? Ripeto, sempre un po' più scarso in qualità, in quantità, e se noi pensiamo a un bambino che cresce, diciamo, le esigenze di un corpo in crescita sono notevoli, no? In termini di proprio di materiale disponibile per far aumentare la statura. È chiaro che nel passato l'ambiente di crescita di questi bambini era, quindi dei nonni e dei bisnonni per intenderci, era un ambiente magari più deprivato, anche igienicamente meno controllato, e quindi diciamo che il cibo che veniva ingerito doveva essere anche in parte utilizzato per combattere eventuali infezioni, malattie che erano sicuramente più diffuse. Marika, scusami, ma allora tu come la vedi questa nostra tendenza oggi molto forte a dire che dobbiamo tornare al cibo come una volta? Non sei tanto d'accordo allora? No, sono d'accordo. Cioè, il problema oggi secondo me è un altro. Il problema è che mentre prima c'era scarsità di cibo in qualità e in quantità, adesso c'è un eccesso di cibo in qualità e in quantità soprattutto, e quindi non a caso abbiamo generazioni infantili tendenti al sovrappeso e all'obesità. Quindi il rischio non è quello di diventare troppo alti, ma troppo grassi? No. Sì, sicuramente, anzi dirò di più, che il fatto di essere troppo grassi, di avere questo aumento di sovrappeso e obesità nei bambini in crescita, può addirittura determinare un'inversione di tendenza, e si può verificare in presenza di generazioni infantili in sovrappeso e obesità addirittura un'inversione di tendenza, cioè verso stature sempre più basse, quindi andare verso condizioni di deterioramento della vita. Un'involuzione, finalmente ho trovato un esempio. Ci sono già evidenze di questo tipo in America. Insomma, questo abbiamo detto, quell'evoluzione è cambiamento, è trasformazione, e certo non è una parola che alla fine tra le sue possibilità, è un continuo. Grazie davvero a Marika Danubio, ciao e buon terra in vista. Grazie, ciao. Grazie a voi, ciao. Expo Pub, 100 cose da sapere per stupire mamma e papà. Gabon, ormai lo sanno tutti che il primo e più grande polmone verde del pianeta è l'Amazzonia. Ma volete sapere qual è il secondo? Si tratta del Gabon, nel bacino del Congo, un paese coperto all'87% da foreste in cui vivono tra i 50.000 e i 70.000 scimpanzé, circa 45.000 gorilla e 60.000 elefanti della foresta, oltre a numerose altre specie di primati, altri mammiferi e rettili. Per gli amanti della musica, invece, una curiosità a tutto ritmo. In questa nazione quasi tutti sanno suonare i bonghi. E dopo questo Expo Pub torniamo a parlare di cibo, evoluzione e cambiamento del nostro corpo. Telmo, il grande cambiamento è stato che camminavamo su quattro zampe, a un certo punto volevamo prendere quel frutto là in alto, in quell'albero, e ci siamo alzati sui piedi, no? In posizione retta. È questo il grande salto evolutivo della nostra specie o no? Sì, è quello il grande cambiamento, diciamo, dell'architettura del nostro corpo. Poi non so se è successo davvero perché volevamo prendere il frutto dell'albero. A scuola lo insegnano così. Sì, lo so, però io mi sono sempre chiesto: ma tu hai mai visto com'è bravo uno scimpanzé a prendere comunque i frutti dagli alberi, saltella qua e là? Qui non è che essendo bipedi ci guadagni tanto a prendere il frutterello. Però in realtà essere bipedi è, prima parlavamo di statura, è stata senz'altro il nostro primo grande segreto. Noi abbiamo cominciato a essere bipedi tanto tempo prima addirittura che cominciasse a crescere il nostro cervello. Un grande scienziato una volta ha detto: noi siamo uomini grazie ai piedi, grandi piedi è stato il nostro segreto prima che grande cervello. E in effetti abbiamo cercato di diventare bipedi in tutti i modi, nei più diversi. Alla fine, 2,5 milioni di anni fa, nel genere Homo siamo diventati bipedi completi, quindi proprio ci siamo alzati in piedi e abbiamo imparato a camminare soltanto sugli arti inferiori, sulle gambe. Molti si sono chiesti perché. In realtà non è facile, non sappiamo perché. Forse per due ragioni. La prima, perché è un comportamento molto flessibile. Prova a pensarci, un bipede può correre rapidamente, se gli serve può comunque arrampicarsi su un albero, che se hai dietro di te un predatore è comunque una buona scelta, e puoi anche nuotare, attraversare un fiume, quindi flessibilità. E poi perché se stai in piedi e sei in una radura aperta, il sole picchia molto di meno, ti colpisce di meno sulla tua superficie corporea, quindi riduce la parte esposta al sole e quindi tende a raffreddare il corpo, quindi può essere stata anche una strategia di raffreddamento del corpo. Qualcuno ha detto: noi siamo delle scimmie di prateria, ci abbiamo imparato a spostarci negli spazi aperti. Fantastica, insomma, l'evoluzione è veramente ricchissima di sorprese e anche di spunti magari per fare un bel esperimento scientifico. Expo Kids, dire, fare, giocare. E se si parla di esperimenti scientifici, il nostro uomo è Andrea Vico, giornalista scientifico di TuScience, www.tuscience.it, il sito di riferimento. Ciao Andrea, ben ritrovato. Ciao, che Andrea. Parola uomo, faccio anch'io la scimmia di prateria, va, che simpatico. Sei il nostro Homo sapiens per la scienza. Andrea, cosa ci proponi oggi? Ah, oggi facciamo un pranzo alla Galapagos. Ah, attenzione. Vabbè, questo mi fa molto piacere, naturalmente. Lo sapevo, caro Telmo. Allora, è un gioco esperimento in cui vi chiediamo di coinvolgere amici, cugini, parenti, tutti i genitori, gli zii, anche il nonno. Diciamo che viene bene quando si è in 12, 13, da quel numero a salire. Gli ingredienti sono 3 tavoli, una stanza grande, ma ovviamente anche il prato, il giardino, la spiaggia va benissimo. Poi serve procurarsi una ventina tra pinze, tenaglie, chiavi inglesi, forbici di 3-4 dimensioni, pinzette da sopracciglia, pinzette da fotografo, pinze da barbecue, forcine da capelli, pinze per tenere i capelli dietro la nuca, insomma tutti questi attrezzi che pinzano. Sì, ok. E ce ne servono una ventina di foggia, le più diverse e disparate. Perfetto. Altrettanti 20 contenitori diversi fra di loro, quindi vasetti dello yogurt, bicchieri, tazzine a caffè, guscio di noce, guscio di noce di cocco, scatolette del tonno, scatola dall'apparecchio per i denti ma senza l'apparecchio per i denti dentro e così via. E poi terzo e ultimo ingrediente, dei semi di mais oppure farro piuttosto che altri graminace, piuttosto che fagioli secchi di varia, non so, borlotti, fagioli di Spagna, caramelle, caramelline di zucchero, caramelle impacchettate, confetti di chewing gum, insomma anche di oggettini di varia natura, tutta roba che si mangia. Insomma, mi sembra una preparazione molto divertita. Quando abbiamo accumulato tutto ciò? Tutto questo, allora, ci sarà un capogioco, che però può anche giocare ovviamente, ma sarà un po' più sopra le parti, che prende tre o quattro di questi ingredienti, di semi, di caramelle, eccetera, eccetera, e le sparge sui tre tavoli. Quindi ogni tavolo ha ingredienti diversi. Poi sorteggia per ogni giocatore, abbinandogli un attrezzo, cioè una pinza e un contenitore. E quindi le tre isole sono tre delle 13 isole delle Galapagos. E tutti i giocatori sono un fringuello di tipo diverso, quindi avrà il suo becco, la sua pinza, il suo becco, e il contenitore sarà il suo stomaco. Quindi, sempre per sorteggio, i 3-4 giocatori vengono messi su un'isola e si crea la situazione di partenza. Al via il capogioco conta 3 minuti e ciascun giocatore, cioè ciascun fringuello sulla sua isola, dovrà, con il becco che si ritrova, con la pinta che gli si ritrova e con lo stomaco che si ritrova, tentare di riempire lo stomaco con i semi, le caramelle, i confetti di chewing gum che si trova per caso su quell'isola. Dopo 3 minuti si vede chi ha in qualche modo riempito meglio lo stomaco. A questo punto chi ha vinto per ogni tavolo può decidere se cambiare il becco oppure no, se cambiare lo stomaco oppure no, e via altri 3 minuti. A quel punto ci sarà un nuovo vincitore, o magari lo stesso, non si sa, che dopo questa seconda manche potrà decidere se rimanere lì dov'è oppure cambiare isola, perché trova del cibo più interessante rispetto al becco che ha su un'isola di fianco e quindi in qualche modo spostarsi. Insomma, è un gioco per vedere come diciamo, è avvenuta la differenziazione dei vari tipi di fringuello, che si chiamano, noti come fringuello di Darwin, anche se poi Telmo saprà dirci che non è proprio Darwin che li ha studiati così attentamente, ed è un modo per capire come di fatto le caratteristiche si trasmettono di padre in figlio, o la capacità di adattamento al cibo di un territorio, le caratteristiche del territorio, sono uno delle chiavi dell'evoluzione, di cui in qualche modo chiaramente anche noi siamo assolutamente coinvolti. Beh, insomma, l'evoluzione è un grande gioco e mi sembra una bella metafora questa, vero Telmo? Bellissimo, geniale. Per fare in modo che sia veramente realistico, bisognerebbe poi che davvero quello che si ritrova col becco meno adatto si ritrova anche a digiunare un pochino più a lungo. È arrivato la parte sadica dell'evoluzionista. Grazie come sempre ad Andrea Vico, ci ritroviamo con un altro esperimento, un altro gioco scientifico alla prossima puntata. Ciao Andrea. Ciao. Mi raccomando, fate una foto e mettetela sulla pagina Facebook, così vediamo quali becchi e quali isole sono state costruite per questo gioco. Assolutamente. Ciao e grazie. A presto. Ciao. Ciao. Adesso una filastrocca di Giorgio Matteotti, il traffico, e poi ancora qua con Terra in Vista. Il topo e il grillo. Diceva un topo rivolto ad un grillo che quella sera era un po' brillo. Di giorno salti e pensi a mangiare, di notte non fai che strillare, non ti è cresciuta nemmeno la coda che è tanto di moda, e poi sei piccino che non ti si vede, mi stai sotto un piede. Il grillo rispose assai contrariato: è vero, sei grosso e tarchiato, così quando il gatto in punta di piedi vien di soppiatto, chi vede ed afferra? Non certo me, che sto raso terra. Terra in vista. Ancora terra in vista, ancora evoluzione, ancora una domanda fatta dai bambini. Perché usiamo le posate? E che domanda molto curiosa, vero Telmo? Eh sì, come mai usiamo questi strumenti per portare il cibo alla bocca, noi umani? L'uomo è l'unico animale che usa le posate? Dunque, posate direi di sì, in realtà però molti altri animali utilizzano strumenti per trovare il cibo e portarselo alla bocca. Per esempio gli scimpanzé sono bravissimi, hanno imparato a usare dei bastoncini e vanno nei termitai e riescono a tirare fuori le termiti e se le mangiano. Hanno addirittura imparato a fare delle tipo spugne e usano delle foglie per raccogliere l'acqua e per berla. Pensa che addirittura prima parlavamo dei fringuelli delle Galapagos, sì. C'è un fringuello delle Galapagos, che è quello del cactus, che ha imparato anche lui a tenere nel becco un bastoncino e va nel cactus a prendere gli insetti dentro il cactus. Quindi gli animali hanno capito che possono utilizzare degli strumenti per mangiare, senz'altro. E invece l'uomo ha capito che era meglio usare le posate, cerchiamo di scoprire il perché e lo facciamo con Alessandra Guigoni, antropologa culturale, blogger, editorialista per Expo 2015. Il suo blog è etnografia.it. Ciao Alessandra, benvenuta a Terra in Vista. Ciao, buongiorno a tutti, grazie per avermi invitato. Sei un'esperta di cibo, di cucina, di mangiare, quindi la persona adatta per dare la risposta a perché usiamo le posate? Quando arrivano? Ma le posate, alcune arrivano molto presto, nel senso che il cucchiaio e il coltello sono veramente due strumenti antichi, mentre la forchetta, anche se era conosciuta ai tempi dei romani, però viene sdoganata e portata a tavola solo nel 500, molto tardi, sì. Mm-hmm. E come mai l'uomo ha scelto di utilizzare questi strumenti per mangiare? Ma guarda, la mia opinione personale, diciamo, oltre che da studiosa, da persona, è che noi siamo dei primati che a tutti i costi non vogliono essere tali, considerati tali. Ci vogliamo distinguere dal resto del regno animale e quindi comportarci in maniera diversa a tavola, non mangiare con le mani, è un segno di civilitas, no, di civiltà, di cultura rispetto allo stato di natura. Però ci sono culture invece dove mangiare con le mani ha un significato importante, sociale, culturale, di condivisione, o sbaglio? No, è verissimo. In quelle culture, diciamo, il confine tra natura e cultura si esprime attraverso altri segni che non sono quelli della tavola, però comunque esistono delle regole molto molto ferree, perché tu pensa che anche quando nelle culture in cui si mangia con le mani, si mangia in un determinato modo, con la mano solo destra, magari con la sinistra non è possibile, e poi si raccolgono i cibi in un certo modo, è tutto ritualizzato e gerarchizzato comunque. Non c'è niente di naturale, ecco. E ora c'è una sorta di ritorno però al mangiare con le mani, sta diventando una sorta di moda o no? Eh sì, piacerà molto ai bambini che hanno fatto la domanda, al finger food, che ormai è una moda, un trend da qualche anno, l'abitudine di cucinare prodotti, pietanze che possono essere mangiati con le mani senza sporcarsi. È di gran moda, sì sì. Mm-hmm. Insomma, e questo secondo te è anche un valore educativo comunque? Ma approcciarsi col cibo nel modo più diretto possibile, secondo me sì, perché questa civiltà delle buone maniere, no, che si è stabilita dal 500 sino ai giorni d'oggi, ha un po' interrotto il rapporto, tra virgolette, naturale col cibo. Quindi assaggiare le cose anche con le mani, senza tante norme e regole, secondo me può servire soprattutto alle nuove generazioni a riavvicinarsi al cibo, quello vero, quello che ne sa di cibo, quello autentico. E coltello, cucchiaio e forchetta sono sempre esistiti così come li conosciamo o avevano forme diverse in origine? No, avevano forme e fogge diverse, inizialmente appunto erano fatte d'osso piuttosto che di legno, i metalli sono venuti dopo, ma poi un conto erano le posate dei contadini, un conto erano le posate dei re, che erano fatti in metalli preziosi, lavorati, fatti fare apposta da grandi artisti. Alessandra, pensando alle posate, appunto viene normale pensare al coltello, alla forchetta, al cucchiaio. Le bacchette sono posate? Le bacchette sono assolutamente delle posate che sono state per l'appunto messe a punto nel lontano Oriente e che gli orientali considerano funzionalissime. A noi tutti capita la prima volta che andiamo a mangiare in un ristorante cinese o giapponese di incartarci, no, con le bacchette, e a loro capita di incartarsi con la nostra forchetta. Sono anche molto, molto funzionali. E anche nell'uso delle bacchette non c'è niente di naturale, di dato per scontato, perché c'è un galateo anche per le bacchette, non si possono usare per fare rumore, non si possono usare per spostare i piatti, non si usano per giocherellare con il cibo, non si usano per infilzare il cibo, devono essere appoggiate in un certo modo sul piatto la ciotola. Quindi c'è un galateo anche in Estremo Oriente, ovviamente. In altri casi invece, Alessandra, si utilizza il pane, no? Come base che accoglie il cibo e che poi utilizzi per afferrarlo, per portarlo alla bocca. Sì, bravo, esatto. E molte popolazioni lo utilizzano, le popolazioni medio orientali che pure hanno la posateria, e anche gli indiani, che insomma sono 1 miliardo di persone, quindi 1 miliardo di persone utilizza soprattutto il pane, quel bel pane morbido tipo spianata, diciamo, che chiamano ciapati o roti, e lo utilizzano per raccogliere il cibo. Ed è veramente una meraviglia mangiare un bel dal di lenticchie o del riso basmati con un buon pezzo di pane. E in effetti io farei il cambio subito, al posto del posato userei il pane proprio tutta la vita. Grazie davvero ad Alessandra Guigoni, ciao e buona terra in vista. Ciao. Grazie, ciao. Expo Pub, 100 cose da sapere per stupire mamma e papà. Vietnam. Il loto, fiore molto diffuso in Vietnam, cresce nel fango e ha le capacità di purificare l'acqua in cui prospera. In Vietnam, gli stami essiccati del fiore di loto vengono usati per la preparazione di un tè molto profumato. Se freschi, gli stessi semi sembrano noccioline e possono essere consumati crudi, oppure essiccati, o persino cucinati come i popcorn. Inoltre, se ne può ricavare una pasta utilizzata in pasticceria per la preparazione dei dolciumi, o se bolliti e ricoperti di zucchero, possono servire per preparare una zuppa dolce chiamata Dong Shu. E queste sono le cose che abbiamo imparato oggi. Che per fortuna gli uomini del Paleolitico non si lavavano i denti, così sappiamo cosa mangiavano. Che l'evoluzione è cambiamento, trasformazione e diversità. Che nell'ultimo secolo, mangiando meglio, siamo diventati più alti. Ma adesso, mangiando troppo, rischiamo di tornare indietro. Che siamo cuochi da 2 milioni di anni e da allora mangiamo proprio di tutto. Che mangiare con le mani non è sempre da maleducati. Questo è quello che abbiamo imparato in questa puntata, un veloce riassunto sull'evoluzione. È stato un bel viaggio, vero Telmo? Sì, ci siamo evoluti un po'. Ci siamo evoluti un po', esatto. Lo faremo anche con le prossime puntate, altri temi, altri argomenti per narrare l'Expo ai nostri figli e ai genitori dei loro amici, quindi un po' a tutti. Vi ricordo che il programma è scritto con Margherita Aine e Silvia Righini. Oggi alla parte tecnica Peter Bescapè, la base, la sigla è dei Matita, questa band milanese formata da 4 disegnatori e musicisti. Sì, perché quello che sentite suonare non è solo uno strumento, ma sono matite, pennarelli, pennelli che tracciano linee su dei fogli amplificati. Tutto ciò lo potete ritrovare sul nostro sito, il sito di Radio 24, nelle pagine di Terra in Vista. Ci potete anche scrivere, l'indirizzo è terrainvista@radio24.it. Ciao Telmo, alla prossima! Alla prossima! Ciao, Terra in Vista! Filastrocca della natura operosa. Niente al mondo si distrugge, tutto sempre si trasforma. Mentre il tempo gira e fugge, tutto il mondo cambia forma. Questo tronco sarà terra, questo frutto sarà seme. Dentro il caldo sottoterra si trasformeranno insieme. La natura è laboriosa come un'ape vecchia e scaltra. Da una cosa fa una cosa, e poi un'altra, poi un'altra, poi un'altra, poi un'altra.